I rossi capelli scendevano un po' sulle spalle magre, scoperte a metà. Tra le dune di sabbia al di là dell'oceano, tra la striscia degli alberi che va verso est. Ma chi sei tu? Piccola donna fragile e difficile, sotto questa pioggia io ti guiderò. Passeremo i ponti sotto i fiumi in piena, e al di là del presente io ti porterò. Lucciole neve sulla nostra strada, dentro i boschi di pietra io ti cercherò. Sulle colline fragili della realtà, sopra i tetti scoscesi delle città, io ti porterò. Tra le sabbie rosse dell'ilarità, con i tuoi occhi scuri che tremano, e i tuoi seni bianchi che ridono, appena usciti dal mare dell'ingenuità. Sulla strada impervia della vanità, oltre il muro scosceso della felicità, nelle terre assolate o dentro i ghiacci del nord, ritrovare se stessi nella semplicità. I rossi capelli sbiadivano un po' sull'orizzonte diafano della vita. Ma chi sei tu? La sera calava sopra la città e i pensieri volavano, ma chi sei tu? Sei cresciuta fragile e difficile, la durezza dei giorni ti ha plasmata già, e i tuoi seni bianchi davanti allo specchio rivelano una nuova femminilità. Da domani sarai tu a vincere, la forza del giorno che ti abbaglierà, e la vita finalmente ti sorriderà sullo stretto cammino della felicità, sullo stretto cammino della felicità, lo stretto cammino, non lo mollare mai, finalmente una donna sicura tu sei, finalmente una donna sicura tu sei, finalmente una donna sicura tu sei.